Palla Spicchi con Carlo Genta. Buonasera a tutti. Dunque, la rincorsa di Montegranaro al secondo posto è completata. Montegranaro seconda da sola alle spalle di Siena, che naturalmente ieri è tornata a vincere. Roma invece ha perso il filo, evidentemente ha festeggiato troppo, oppure ha un'anima adatta solo alle grandi partite, adatte solo alle partite in cui ci sono motivazioni speciali. Se è così, di strada rischia di non farne moltissima. Questi risultati dunque della domenica: all'ora di pranzo la Lottomatica, che ha perso appunto in maniera nemmeno così, insomma, così non al photo finish contro Cantù, 79-61, risultato larghissimo. Treviso su Napoli naturalmente senza storia. Poi Teramo, che è riuscita a ribaltare il risultato che all'intervallo la vedeva sotto nel punteggio con Biella, e a vincere 78-71. Bologna fa il colpo, la Virtus Bologna fa il colpo a Caserta, ed è per questo che Montegranaro lascia, saluta l'intera compagnia e si arrampica da sola al secondo posto. Vince la Canadian Solar a Bologna 74-67, appunto, in Campania. Quindi Ferrara batte Varese 77-60, e la corsa salvezza a questo punto è davvero appassionante, al di là per quell'unico posto che rimane disponibile, perché Napoli, come sapete, non esiste. Montegranaro invece, sempre in chiave testa coda, supera Vanoli Cremona 91-72. Questi i risultati dell'ottava giornata. Dario Ricci, la classifica invece è il trionfo di Montegranaro, per l'appunto, dietro Siena. Eh sì. Poi, tra l'altro, vale la pena ricordare, Carlo, che il programma verrà completato domani sera alle 20:30 dal posticipo tra Scavolini Spar Pesaro e Armani Jeans Milano, posticipo dovuto agli impegni europei della Scavolini, che in settimana ha conquistato le Final Four di Euro Challenge. Classifica, dicevamo. Allora, Montepaschi Siena in testa, 44 punti, 32 punti per la Sigma Coatings Montegranaro, a quota 30 Pepsi Caserta e Canadian Solar Bologna, 28 punti per Armani Jeans Milano ed NGC Cantù, Air Avellino e Lottomatica Roma a quota 24, e la Lottomatica chiude il gruppo delle 8 che a questo punto sarebbero qualificate per i playoff, 22 punti per il Benetton Treviso, a 20 Banca Terca Teramo, 18 punti per Angelico Biella e Cimberio Varese, 16 punti per Vanoli Cremona e Carife Ferrara, 14 punti per Scavolini Spar Pesaro, a meno 8 chiude Napoli. Sì, nel gioco delle differenze canestri vale la pena ricordare che la Vanoni Cremona è in vantaggio sulla Carife Ferrara, si trovano entrambe appaiate a 16 punti. Vale la pena ricordare che Caserta oggi ha perso in casa la partita con Bologna, con la Virtus, è stata raggiunta dalla Virtus Bologna, ma ha salvato la differenza canestri nel doppio confronto, avendo vinto con 12 punti di scarto la gara di andata, appunto, in Emilia. Biella mi sembra ormai fuori, vista la classifica, dalla rincorsa ai playoff. Sono davvero a questo punto troppo lontani Avellino e Roma a quota 24. Andiamo proprio sulla partita chiave di questa domenica pomeriggio, quella di Caserta, appunto. Carmelo Prestisimone, buonasera. Sì, Carlo, buonasera. Caserta subisce un brutto stop al Palamaggio dalla parte della Virtus Bologna, oggi è terza, come dicevi, da studio, e viene raggiunta proprio dalla formazione emiliana a 30 punti. I casertani vengono superati al secondo posto proprio da Montegranaro. Il team di Lardo ha sancito questa vittoria con una bomba di Moss che ha portato gli emiliani sul 68-63 dalla fine. Virtus che poi ha vinto agilmente 74-67, cattive percentuali per i casertani, ha spiegato così la sconfitta sacripante in sala stampa, che si è soffermato molto sulla cattiva percentuale del tiro proprio da tre punti, percentuale sicuramente che va migliorata. Oggi i casertani hanno tirato con il 32%, a Caserta non è bastato il solito Jones, che ha realizzato 17 punti con 5 su 13 da 3, bene anche Michelori, che ha fatto 13 punti sfiorando la doppia doppia doppia con 9 rimbalzi conquistati. Parlando proprio di gestione, di playmaking, molto bene il play virtusino Koponen, 21 punti con 4 su 5 da 2, 2 su 3 da 3 punti, sotto canestro ottimo Fajardo, 15 punti, 6 su 10 da 2, 1 su 2 da 3, buono anche il contributo di Leroy Hard, 12 punti con 5 su 8 da 2. L'Ardo in sala stampa ha spiegato che la lettura del successo della sua squadra è stata nella difesa, ha detto l'Ardo che si è ispirato alla difesa del Barcellona che ha giocato in maniera perfetta ed aggressiva in Eurolega con il Real Madrid. A te Carlo. Grazie a Carmelo Prestesimone, magari è contro il Real Madrid che ha battuto il Barça in Eurolega con Ettore Messina, che ha fatto una delle imprese settimanali, è stata una settimana quella passata di grande impresa, aperta proprio domenica scorsa dal successo di Roma su Siena. Poi ne abbiamo visto di tutti i colori, dall'Eurolega col Partizan che vince a Tel Aviv, ne abbiamo parlato anche venerdì, con poi Ettore Messina che sbanca il Palau Blaugrana con una difesa pazzesca. Prima vittoria stagionale del Real sul Barça. Sì, prima vittoria, se non ricordo male, anche in Eurolega in trasferta del Real Madrid sul Barcellona. Mi sembra che la striscia fosse a 9 successi del Barcellona in casa contro Real Madrid. Insomma, una partita che ti può cambiare la vita. Adesso in settimana vedremo chi farà la grande impresa in Eurolega. Poi siamo passati anche attraverso l'impresa di Gallinari contro... Beh, allora pure l'impresa dei Nets che sono riusciti a vincere 2 gare di fila. Addirittura 2 gare di fila. Poi che altra impresa? Quella di quel 17enne americano che è stato l'unico su 5 milioni di persone ad indovinare il più pazzo tabellone del torneo NCAA della storia umana. I 40 punti del rookie di Dallas, il francese Bourgois, adesso contro Golden State. ne abbiamo viste un sacco. Intanto un'impresa, ma è solo l'ennesima, l'ha fatta oggi Cantù. Saluto mio amico Bruno Arrigoni, buongiorno Bruno. Buongiorno a te, Santi, buonasera a te. Ma adesso dove andate? Adesso andiamo... A cena, sì, questa sera a cena, sì, un bello weekend rovinato solo la sconfitta dell'Inter, vabbè, pazienza. Vabbè, non si può avere tutto dalla vita, Bruno. Non si può avere tutto, certo. Ma la partita di oggi come l'hai vista? Ma io credo che noi abbiamo preso in mano la partita fino dall'inizio in maniera estremamente autoritaria e autorevole. Ecco, non ci siamo stati a piangere addosso sull'incidente a Marcosvili, la squadra è stata... Ho preparato molto bene la settimana, oggi Mian, abbiamo detto largo il giovane, che ha fatto partire Mian nei primi 5, ecco, siamo tenuti Barzarino di rincorsa e abbiamo avuto molto da tutti, ecco, veramente oggi una partita nella quale la squadra si è espressa proprio al meglio, coralmente, e tutti hanno portato un bel mattone. Ecco. Hanno portato un bel mattone, e mattone magari ce l'avevano in tasca anche quelli di Roma. Ecco, quelli di Roma ce l'avevano in tasca, sembravano un po' appesantiti, ecco, onestamente noi abbiamo difeso molto bene, ecco, al di là di quelli che possono essere i demeriti di Roma, io credo che loro abbiano fatto molta fatica contro la nostra difesa, che è stata molto ben messa sul campo e che non gli ha permesso di sviluppare i temi che gli sono più congeniali e che gli sono, sono quelli che poi gli hanno portati a vincere con Siena. Siamo andati in vantaggio subito, quando loro hanno alzato la voce non ci siamo fatti intimorire, cosa che ogni tanto ci capita, e abbiamo tenuto la partita in mano saldamente da inizio alla fine. Poi, per la carità, questa è una bella soddisfazione, è chiusa qui, ecco, è finita alle 2 di oggi, è finita, poi domani riapriamo, giriamo una pagina con il sabato prossimo, chissà cosa succede, però sulla partita di oggi dobbiamo essere veramente soddisfatti. Però Bruno, a Cantù non c'è il Ponentino come a Roma, però dopo la vittoria nel derby, dopo che batti Roma che era la squadra del momento, sarà difficile tenere i ragazzi del Pianella, Diciamo che i nostri sostenitori, il nostro pubblico, il nostro ambiente è abituato, sa insomma che noi non siamo una squadra di prima fascia, siamo una squadra che lavora forte e che quindi ci potrebbe anche essere un po' di logorio della vita moderna, ecco, nel tempo, però noi tanto ci prendiamo, oggi noi abbiamo 28 punti in classifica, sono quelli con i quali abbiamo finito la stagione regolare l'anno scorso, per cui poi ci manca la partita con Napoli, perché questa è una classifica un po' finta, perché è come il gioco dell'Oca, che gioca con Napoli, poi tira un'altra volta, gioca con Siena è come se si ferma un giro, ecco, e quindi non è proprio una classifica limpidissima, ecco, per cui lì dipende molto da chi ha giocato con Siena e da chi ha giocato con Napoli. Noi abbiamo Siena e Napoli alla penultima e l'ultima giornata, per cui i nostri punti sono più che regolari, sì. Ecco, quindi noi finiamo, oggi siamo con i stessi punti con cui abbiamo finito la stagione regolare la scorsa stagione, e speriamo di mettercene qualcun altro da qua alla fine, qualcuno, ecco, in più dei due che quelli del gioco dell'Oca, sì. Quelli del gioco dell'Oca, bravo. Grazie Bruno, complimenti. Grazie a voi, buona serata, buon lavoro. Grazie, ciao. Davvero a Bruno Arrigoni, questa non l'avevo ancora sentita ed è bellissima. Bellissima, è la migliore della stagione. Assolutamente sì, e poi ci dà anche una lettura della classifica diversa, perché Cantù, avendo le penultime, ultima giornata, il raddoppio e il giro da saltare, pesano, sì, pesa doppio. Però ha visto Roma che ha tirato due volte con Siena, perché praticamente quei punti lì valgono doppio. Oggi è stata ferma un giro a Cantù. Palla spicchi. Dunque torniamo a dare rapidamente un'occhiata alle cifre di Montegranaro, che come detto è solo al secondo posto, oggi ha battuto Cremona, non di poco peraltro, 91-72. Sì, 91-72, tra l'altro Carlo parlavamo di imprese, beh, quella di oggi è la decima vittoria consecutiva di Montegranaro, che non perde, lo guardavamo prima, dal 10 gennaio quando cade contro Avellino 80-69. Oggi 91-72 per i marchigiani, che hanno concluso con il 63.6 da due punti, col 52% da tre punti. Hanno vinto anche il duello a rimbalzo 31-27. Per quanto riguarda i tabellini, 11 punti di Cavaliero, 10 di Marchignos, 15 di Maestranzi, 3 su 4 da 2, 3 su 5 da 3, e poi 12 punti di Andrea Cinciarini, 13 punti per Dejan Ivanov, e da sottolineare anche la prova a rimbalzo non solo dei soliti noti Brunner e Ivanov, ma anche di Figlioi, che aggiunge ai suoi 7 punti anche 7 rimbalzi. In casa di Cremona non bastano i 24 punti per un 20 di valutazione di Troy Bell, i 12 di Marco Milic, che aggiunge anche 8 rimbalzi, e i 10 di Earl Rowland, che tira con un 1 su 3 da 2, 0 su 2 da 3 punti e 3 rimbalzi. Per Attilio Kea c'è anche il problema di Marco Cusin, che evidentemente ancora non sta bene, solo 7 minuti in campo, nessun punto e 2 rimbalzi, certamente non un fattore in questa Cremona al momento. Flavio Tranquillo, buonasera. Buonasera a lei. Ti giro la più bella definizione della classifica che ho sentito quest'anno, Bruno Arrigoni. L'ho sentita. Cosa dici? Gioco dell'oca. Above and beyond, dicono negli Stati Uniti. Al di sopra e oltre. Al di sopra e oltre, hai ragione. Al di sopra e oltre è ormai Montegranaro. Al di sopra di tutti gli altri che non siano Siena. E oltre ogni previsione, immaginazione, sogno, fantasia, quello che vuoi. Guarda, io mi sono accorto che era un momento particolare per Montegranaro alla Coppa Italia, ad Avellino, perché nel primo tempo hanno giocato con una leggerezza assolutamente incredibile, e finché non si svegliano, finché non realizzano che 10 vittorie di fila, viste le premesse, sono qualcosa di clamoroso, non vedo perché debbano perdere quella leggerezza. La leggerezza la leggi nel 18 su 30 da 3 contro Treviso, nel 14 su 27 da 3 di oggi. È lo stesso tipo di pallacanestro che sta dando problemi a tante squadre e che condanniamo quando ti dà problemi, però quando la palla è leggera e quando la mente è leggera anche più della palla, evidentemente funziona. Senti, però, invece che lettura dai della partita che ha giocato Roma a Cantù? Beh, la lettura non è facilissima, direi che i discorsi sostanzialmente sono sempre quelli, e cioè gerarchie da cercare, agonismo da cercare, e non è un caso, direi, che contro Siena tu lasci da parte A le gerarchie, B i problemi motivazionali, perché non puoi non motivarti in quel tipo di situazione con l'impresa davanti. La vera impresa, e questa è la grandezza di Siena in queste stagioni, è essere normali, trovare le motivazioni, spegnere sul nascere squadre che magari ti vogliono aggredire, azzannare immediatamente, come Cantù oggi è stata. Se devo dirti la verità, 6-0, 8-0, ho pensato a quel punto, Cantù fa fatica a giocare 40 minuti ad arrivare fino in fondo contro una squadra così lunga e in questo momento di forma, e invece non ha fatto alcun tipo di fatica. Più che un punto di domanda non saprei metterti su Roma. Sì, no, ma soprattutto perché usciva da quella partita, hai detto bene, l'incapacità di Roma di essere normale. È chiaro che nei playoff la normalità può contare, quindi continua a vedere Roma. Adesso vediamo qual è la griglia, però Roma nei playoff magari può fare di questa sua follia un punto di forza, non lo so. Bologna che vince a Caserta, invece un altro piccolo segnale. Bologna è brava ad essere normale, non riesce ad avere picchi, ma è brava ad essere normale. Molto brava, molto solida, è una squadra che ha identità. Direi che le squadre che hanno identità si contano con molto rispetto per tutti sulle dita di una mano. Ovviamente Siena, la Montegranaro delle 10 vittorie, sicuramente Cantù e sicuramente Bologna. Caserta ha un'identità, però onestamente gioca una pallacanestro e la giocava anche prima quando la classifica era di molto migliore in attacco, che è troppo legata a dei fattori che non controlli tu, tipo il tiro da tre esagerato, tipo isolamenti soprattutto esagerati. È una squadra che muove pochissimo il pallone. Bologna gioca al suo ritmo, fa solo la sua pallacanestro, però quella la fa veramente bene. Flavio, parlavamo di griglia playoff, la classifica dice di sì, ma Treviso, Teramo, eventualmente Biella hanno secondo te effettivamente la possibilità di entrarci in questa griglia? Ma io penso che Biella in questo momento onestamente si guardi più indietro che avanti, anche perché nelle ultime 13, a parte Napoli naturalmente che è fuori causa gioco dell'Oca, è la squadra con il peggior record in assoluto della Serie A. Però sia Biel che Teramo che Varese che naturalmente Treviso hanno la possibilità di entrare. Credo che sarà un finale particolarmente equilibrato, particolarmente livellato, particolarmente verso il basso, perché altrimenti ci prenderemo in giro, però sempre equilibrato e sempre livellato. Partite che si fanno guardare fino alla fine ce ne sono tantissime. Sì, anche se le storie più tese sono quelle al di là del doppio tiro di Dadi oggi al gioco dell'Oca di Treviso, le storie più difficili sono quelle che i momenti più difficili sono quelli che sta vivendo Treviso, con un'aria di contestazione intorno, con Repeja non digerito dalla tifoseria, con un programma partito in un modo proseguito in un altro. Non sai se ti ricordi all'inizio stagione che parlavamo di delle tante scommesse che aveva sul tavolo Treviso, tu dicevi se ne vince due hanno già fatto un grande lavoro. Ora non si capisce bene dove Treviso voglia andare. Questo decisamente è un problema. Questo è decisamente un problema, ma poi mi sembra chiaramente, penso a Cantù, penso a Montegranaro, penso a Caserta, penso alla stessa Virtus, mi sembra un campionato in cui paradossalmente avere un basso livello di aspettative o in assoluto o rispetto al passato recente, il caso della Virtus, si tramuta in un grande vantaggio. Allora è un campionato forse più giocato sui nervi, sulle aspettative, sulle situazioni psicologiche, che non necessariamente sulla pallacanestro in senso stretto. E Treviso si è trovata a un certo punto ad alzare le sue aspettative rispetto ai risultati e quindi a dover anche rinnegare una linea, e questo può diventare un problema, anzi lo diventa sicuramente. Domani sera, Flavio, posticipo di lusso, Pesaro-Milano, chi si gioca di più? È chiaro che si gioca di più Pesaro, perché è in una situazione più difficile, però poi dovesse perdere la Scavolini-Spa non è che finisce la stagione, idem dovesse vincere o perdere l'Armani Jeans, non è che abbia risolto la stagione con una vittoria e distrutto la stagione con una sconfitta. Però penso che Pesaro abbia più spalle al muro e quindi per questo motivo per l'Armani Jeans è un'occasione importante. Per chiudere, con tutto il rispetto per Danilo Gallinari, per Ettore Messina, per tutti per Bonicioli la domenica scorsa, per tutti i protagonisti della settimana delle grandi imprese, secondo me la più grande rimane quella di quel ragazzo con problemi di autismo che ha indovinato il tabellone NCAA. Questo era impossibile. Assolutamente impossibile, anche perché basta vedere quanti tabelloni sono stati fatti in giro, non solo per gli Stati Uniti ma in tutto il mondo, e quanti ne sono stati indovinati. No? Sì, più 5 milioni, 4 e 8, una cosa del genere. Tabellone più tabellone meno. E azzeccare è veramente un'impresa oltre i limiti dell'autismo. Te ne ricordi un altro così? Un torneo in CIA così? No, con così tanta costanza di upset? No, magari un turno con due o tre clamorosi upset, ma così tanti così in continuità e sembrano non finire mai? No, onestamente non me lo ricordo. Grazie Flavio, a domenica. A voi. A venerdì con Flavio Tranquillo. Io faccio un riepilogo, Dario, mi sembra a caso, perché domenica prossima è Pasqua, ma noi ci saremo. Allora, sabato programma con tutto lo sport del mondo sabato, come ben sapete, dal calcio al basket, che si gioca alle 20:30 del sabato di Pasqua. Calcio invece alle 15, come se fosse domenica. Noi saremo qui dalle 17 alle 18 per raccontarvi tutto sulla giornata di Serie A, abbastanza importante, diciamo, dopo i risultati di questo turno. E poi la domenica saremo insieme al giorno di Pasqua dalle 17 alle 18. Tra l'altro c'è anche un gran premio a Singapore, c'è anche grande ciclismo. E poi domenica prossima saremo qui dalle 20:30 alle 21 per parlare, comunque commentare comunque la nona giornata del basket, e chissà mai altre sorprese che secondo me possono uscire sulla ruota dell'Eurolega. Io ti lascio Milan-Lazio intanto. Assolutamente presente, poi con gli appuntamenti serali, GR 0-0 mi pare dopo 11 minuti di gioco, non ho guardato un granché. Milan che mi sembra preme, gioca con Borriello e Inzaghi. Attacco, sì. Soprattutto giochi in 11. Oggi in 11 manca Roni, insomma. Si corre in 11 oggi almeno, vediamo i risultati. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Buona serata a tutti.